voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Ambrogio Caccia Dominioni, da una famiglia di architetti a Tesmec, impresa globale, di Anna Marino. Mentre nella famiglia design e cose di questo genere erano caratteristiche maggioritarie, probabilmente per un blocco mentale ero assolutamente negato a tutto quello che era la propensione alla professione di architetti, che in famiglia andava per la maggiore. Per cui mi sono trovato nella realtà a avere più affinità alle cose pratiche della vita. E siccome già in famiglia c'era un'attività anche di tipo agricolo commerciale, origine della famiglia milanese, però le attività imprenditoriali in quegli anni le gestivano dalla Valtellina, c'era un'attività connessa all'agricoltura, ai boschi, io ero abbastanza portato a vivere all'aria aperta in questo ambiente dove l'attività era un'attività portata più a essere imprenditori che a essere persone d'ufficio. È chiaro che poi me ne sono accorto strada facendo, però il tipo di attività tipica di un imprenditore, che è contatti umani, relazioni, sviluppo di nuove idee, me la sono tirata da mio padre. Mio padre è morto a 89 anni e fino all'ultima ora aveva idee e aveva idea di continuare. E questa, diciamo, piccola follia è rimasta anche in me. In poche parole, Ambrogio Caccia Dominioni descrive la sua svolta imprenditoriale e le sue radici valtellinesi a cospetto di una famiglia con una storia di secoli e una casata proprietaria di terreni e ville e dedita all'agricoltura prima, e poi soprattutto conosciuta per la figura di Luigi Caccia Dominioni, architetto, designer e urbanista italiano. Come lui, Ambrogio Caccia Dominioni studia a Milano, ma poi percorre la sua strada e il suo ingresso nell'attività di famiglia avviene in modo calibrato. Io ero figlio della tradizione, ho fatto le mie scuole presso i gesuiti, avevo studiato con l'idea che la famiglia fosse l'ambiente dove lavorare. Ero figlio del capofamiglia, per cui il mio padre erano 7 fratelli, eravamo 36 cugini ed ero nell'ambito della famiglia destinato a raccogliere gli oneri della famiglia. Come tale, finiti gli studi, vista la situazione, ho cercato di allontanarmi dalla famiglia e sono uscito, e per un periodo ho lavorato in una società di consulenza americana, Arthur Andersen, facendo una certa carriera e maturando una certa professionalità che peraltro negli anni successivi ho usato, perché quando la famiglia ha avuto dei problemi sono stato indicato da mio padre come persona che doveva tornare in casa e risolvere i problemi che si erano rivelati in una piccola azienda di famiglia che avevamo in questa era negli anni 70. E così ricorda la sua giovinezza nella casa di famiglia in piazza Sant'Ambrogio, nella capitale meneghina. Io mi sento valtellinese, obiettivamente. Anche se la casa di famiglia è giudicata quella di piazza Sant'Ambrogio, per parte di mia nonna e per parte di mio padre l'affezione e il cuore è più legato alla Valtellina. Per cui tendenzialmente ho ancora un animo un po' da contadino. Gli inizi dell'attività del gruppo Tesmec risalgono al 1951 con la costituzione, su iniziativa di Annibale Caccia Dominioni e Alfredo Brignoli, di CRF, Officina Meccanica di Precisione S.p.A., società specializzata in lavorazioni di alta precisione per particolari meccanici. È una società familiare che si è quotata in borsa nel 2010 e che oggi è una piccola multinazionale nel settore infrastrutture, presente in oltre 57 paesi a livello globale. È guidata dal presidente e amministratore delegato Ambrogio Caccia Dominioni, seconda generazione. Può contare oggi su circa 350 dipendenti e dispone di 4 siti produttivi, 3 in Italia, nel Bergamasco e nel Lecchese, e uno negli Stati Uniti d'America, ad Alvarado, in Texas. Al 30 settembre 2012 il gruppo Tesmec ha registrato ricavi consolidati pari a circa 80,8 milioni di euro e si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni integrate per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture, reti aeree e interrate e tubazioni. L'azienda è stata creata nel dopoguerra, dico, perché allora tutti si cercavano di vedere un mondo positivo ed era una piccola azienda metalmeccanica. Ha avuto una prima fase di crescita e poi ha avuto già subito delle fasi di crisi abbastanza immediate, perché le persone che erano partite non capivano come sarebbe cambiato il mondo, e periodicamente l'azienda è cambiata. È vero che l'azienda è cresciuta, però l'azienda è cresciuta per stimoli anche esterni, perché la famiglia era il nucleo iniziale, ma il grande stimolo per esempio di Tesmec è stato l'entrata di un socio locale bergamasco che aveva molto più senso pratico della vita ed era probabilmente anche dotato di una grande incoscienza, per cui questo signore, nell'epoca in cui c'era la crisi derivante dalla nazionalizzazione del settore elettrico, ha iniziato un'attività che poi nel mondo si è rivelata vincente. Detto questo, la famiglia nostra poi aveva perso la governance delle aziende e come tale poi si era ridotta negli anni 60 a una piccola realtà. Quando sono rientrato, l'azienda Tesmec, eravamo usciti e non eravamo più in queste aziende. Ecco i ricordi dei tempi in cui da bambino Ambrogio Cacciadominioni frequentava l'azienda di famiglia, Tesmec. Tempi severi anche per chi stava meglio. Io entravo solo nelle attività di famiglia perché ero stimolato dalla famiglia, siccome di soldi non se ne vedevano, perché tradizionalmente allora i ragazzi non venivano foraggiati come i ragazzi odierni, mi chiamavano a fare i lavoretti perché dovevo guadagnarmi qualcosa, però sostanzialmente entravo per opportunità, non entravo con degli impegni, perché poi alla fine era anche giusto essere così. Cercavo di guadagnarmi la pagnotta per potermi divertire, punto e basta. Superare le difficoltà nonostante la crisi, non solo grazie alle innovazioni della produzione, che nel caso di Tesmec permettono, ad esempio, di risolvere problemi legati a lavori di posa di reti elettriche ferroviarie e cavi in fibra ottica anche in territori difficili e condizioni estreme, o di effettuare scavi e sbancamenti per interrare tubi anche in grado di scavare efficacemente in varie tipologie di terreni, inclusi quelli rocciosi e quelli ghiacciati, e di operare in condizioni ambientali difficili, come le zone desertiche o artiche, ma soprattutto per far fronte alla crisi grazie a capacità di rilanciare economicamente l'azienda. Lo spirito imprenditoriale deve esserci soprattutto nei momenti peggiori. Io sono rientrato in una posizione di crisi e ho recepito già da allora che nel settore tradizionale, se non c'era qualche idea innovativa, se non c'era una gestione di prodotti di mercato, le cose sarebbero diventate difficili, molto difficili. Di fatto in questi anni, pur non mai licenziando mai, pur cercando di gestire certe crisi aziendali in maniera, diciamo, sociale, si è passato delle epoche in cui era necessario innovare. Automaticamente, le dico, un po' per intuizioni, un po' per senso dell'apertura al mercato globale, si sono identificati alcuni settori che si vedeva davano con più facilità uno sviluppo. Se non hai una struttura, e in questo mi ha dato una mano la famiglia mia, mia moglie, i miei figli, che sia, noi siamo sempre usciti più solidi dalle crisi piuttosto che abbattersi. È per questo che, secondo Ambrogio Cacciadominioni, il gruppo Tesmec è competitivo soprattutto su mercati esteri, grazie alla costante internazionalizzazione iniziata già negli anni 60. E qui non devo assumermi meriti che non sono miei. Il socio che avevamo lasciato in azienda negli anni aveva creato un certo spirito di internazionalizzazione. Questo socio aveva morto di prematuramente un tumore, aveva lasciato l'azienda a dei generi che avevano distrutto, però avevano lasciato in piedi una certa cultura della struttura aziendale, si vuole dire l'azienda aveva dei prodotti e andavano solo rilanciati. Con l'esperienza fatta e con la faccia di tolla che poteva avere uno che aveva fatto il consulente per 8-10 anni, ci siamo guardati in giro e abbiamo detto dove andiamo, dove è il prodotto, dove sono le opportunità. E siamo andati a tappeto in tutto il mondo. Tesmec sbarca non solo negli Stati Uniti, con Tesmec USA, sede e unità produttiva di Mansfield, Dallas, Texas, ma anche in Cina, Messico, Canada, Russia, Asia, Qatar e Sudafrica. L'aneddoto più importante è che questa azienda, per esempio, aveva aperto una società produttiva negli Stati Uniti che era stata totalmente abbandonata, che era tecnicamente fallita. Dal Texas, per esempio, noi oggi, dopo 10 anni, siamo stati percepiti come società americana, siamo leader di mercato e abbiamo ricostruito la società da zero, senza aver oltretutto investito ulteriori capitali. Siamo andati nei mercati più difficili, che sono sostanzialmente gli Stati Uniti, in parallelo Cina e Russia, che sono mercati di grandi opportunità, ma con grandi problemi. E i ricordi riguardano anche i rapporti con le maggiori società operanti in Cina e in particolare con lo State Grid of China Corporation, ente nazionale cinese che gestisce la rete di trasmissione di energia elettrica. Io con la mia generazione ho iniziato a lavorare in Cina quando c'era il Partito Comunista. Era molto più facile lavorare quando c'era un privato contro uno Stato. Lo Stato ragionava su delle logiche strane e la Cina comprava certi articoli perché qualcuno aveva deciso, ma non sapeva neanche cosa comprava. Adeguarsi alla nuova situazione cinese, dove ti trovi con persone che se comprano qualcosa pensano di voler comprare quello che tu gli vendi, è molto più complesso. La cosa essenziale è avere una certa umiltà, e gli italiani secondo me da questo punto di vista sono tra i migliori, di capire cos'è l'esigenza del cliente e come il mercato si sta evolvendo. Puntare sui mercati internazionali, ma anche sull'Europa. Ecco la ricetta anticrisi di Ambrogio Cacciadominioni per tutte le aziende italiane, che ha portato la sua Tesmec a registrare solo il 5% del fatturato in Italia. Tendenzialmente l'Italia deve avere un ruolo, ma il ruolo deve essere dell'Europa. È una follia pensare che l'Italia possa esistere fuori dall'Europa, perché l'Europa è invece un'area interessante dove è possibile muoversi, ma un paese di 60 milioni di persone non avrà un futuro se va da solo. È chiaro che ci sono delle cose che vanno risolte, perché avere regole fiscali così diverse da paese a paese, leggi così diverse da paese a paese potrebbero avere dei grossi impatti negativi sul paese. È chiaro che l'Italia ha una crisi, ma l'Italia ha la necessità di sistemare il suo debito pubblico. E viaggiare all'estero insegna anche molto di più che fare affari. Riporta a sorpresa alle proprie origini. La parola che mi rimane in testa in Cina, che te la dicono tutti i giorni, è una parola che dice non far perdere la faccia al tuo interlocutore. Si chiama Wanxi. Se tu fai perdere la faccia al tuo interlocutore, quando ti frega, tu hai finito. Per cui tu devi essere fregato, ma devi allegramente non farlo vedere che te ne sei accorto. E questo qui poi, bene o male, che era nella cultura di famiglia, siccome se perdi la faccia perdi il nome, vale direi in tutto il mondo, perché se tu vuoi vincere troppo non vinci mai. E in questo direi l'educazione gesuitica tante volte aiuta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.